Forse se mi sforzo abbastanza dovreste riuscire a sentire quello che penso. Buonasera signori, mettetevi comodi. Io adesso chiamerei qua subito sul palco. L'idolo di tutte quante le signore anziane al supermercato che non riescono ad arrivare allo Scottex. Ladies and gentlemen, put your lovely hands together for Giuseppe Scoditti! Buonasera! Buonasera e che dire, benvenuti a questo spettacolo pieno di gag. Un altro applauso. Buon appetito. Bene, allora è una serata particolarmente emozionante per me perché è la prima volta dopo anni che recito di fronte a un pubblico senza mascherine. Posso notare tutte le espressioni tipo la sua, cioè vedo la bocca, vedo le risate, bellissimo. Finalmente cominciamo a levarci queste mascherine, no? Perché abbiamo scoperto la cura, e non sto parlando del vaccino naturalmente, sto parlando della cosa più incredibile che è stata scoperta riguardo al coronavirus, ovvero il fatto che il virus viene neutralizzato appena ti siedi al ristorante. È incredibile, è straordinario, scusate. E infatti, secondo me, lo Stato la sta gestendo malissimo. Cioè, dovrebbero comprare tavoli apparecchiati per tutti con sedie, con le rotelle, così se tu esci te la porti dietro. Perché devi stare seduto, eh? Devi stare seduto, perché appena ti alzi un po', cioè appena il culo si stacca un po' dalla sedia, il virus fa subito... Ok, signori, il soggetto ha riacquisito la posizione retta, è fuori dalla bolla protettiva del tavolo, ripeto, è fuori dalla bolla protettiva del tavolo. Tempo di raggiungimento del bagno 35 secondi, temperatura ideale, mascherina FFP2 che usa da più di 6 mesi, quindi non dovremmo avere problemi a entrare dentro. Vi consiglio di non ignorare le mani perché quello non se le lava mai. Quindi, signore e signori, occhi sull'obiettivo e che dire? Che Dio vi benedica, ragazzi. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Buon appetito, ragazzi. Allora, io mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Giuseppe Scoditti. Comincio subito con un piccolo riassunto dei miei ultimi 2 anni e mezzo. Allora, voi dovete sapere che io faccio parte di un gruppo di comici che si chiama Contenuti Zero. E una sera viene a vederci il più importante manager di comici italiano. E gli piacciamo. Questo manager ci mette in contatto con un direttore Rai, che fa parte di un partito politico che sta al governo, e piacciamo anche a lui. Questo direttore Rai a un certo punto decide di darci un intero programma in seconda serata su Rai 2. Cade il governo, il direttore Rai salta, i palinsesti televisivi vengono cancellati, il nostro manager muore e arriva una pandemia globale. Ma dopo 2 anni e mezzo finalmente ci dicono che possiamo tornare in scena, possiamo fare il nostro lavoro col pubblico, dal vivo, ma subito dopo 70 anni, scoppia la guerra. Ecco, una risata amara. Io devo dire che adesso sto cominciando gli spettacoli con questo piccolo monologo, questo piccolo cappello, e ogni volta che lo faccio ci sono delle piccole modifiche. Direi, no? Mi sembra però che con queste ultime modifiche siamo un po' vicini alla fine del riassunto. Alla fine di tutti i riassunti, alla fine di tutti noi, dell'epoca dell'uomo. E allora forse arriverà un'epoca di grande silenzio, l'epoca in cui le acque torneranno a sovrastare il nostro pianeta, la pantalassa e la pa... Lei, brava, brava. Incredibile, eh? Come ce lo ricordiamo? È quella più difficile. Però quanto cazzo ci hanno rotto i coglioni sulla pantalassa e la Pangea? È una cosa a cui io non penso mai. Non mi ha cambiato minimamente la vita sapere che cos'è la pantalassa e la Pangea. E allora, con la Pangea e la pantalassa, tornerà l'epoca delle alghette, dei plankton, delle medusine che mangiano i plankton. Brava, un applauso per la professoressa! E poi arriverà l'epoca delle medusine che si vogliono bene, che si sono conosciute a una festa di medusine, che si vogliono bene, ma che sono nemiche, perché appartengono a due famiglie diverse. La famiglia delle medusine blu acqua e la famiglia delle medusine rosa acqua, essendo in acqua, naturalmente. Ed è per questo che si incontrano. Ogni notte, di nascosto, la medusina blu acqua va sotto lo scoglio della medusina rosa acqua a sussurrarle dolci parole. E la medusina rosa acqua esce dal buco dello scoglio e mentre si pettina i tentacoli con una lisca diorata gli risponde su un fondale di stelle marine. Ma la loro serenità verrà interrotta dall'uccisione del migliore amico della medusina blu acqua, Merluzio, ucciso dal cugino della medusina rosa acqua con un taglientissimo pezzo di cozza. Che ridi? Povero Merluzio, trafitto brutalmente. Come si chiama la parte delle meduse? Sai quando cammini sulla spiaggia, le vedi e non puoi prenderle da sotto, devi prenderle da sopra perché è? La capocchia. Trafitto brutalmente nella capocchia. Allora che succede? Che la medusina blu impazzisce di dolore e scaglia un paguro addosso al cugino della medusina rosa acqua e lo uccide. Per questo viene esiliato dalla barriera corallina di Verona. La medusina rosa allora impazzisce di dolore e si reca da frate Lorenzo, che è un prete che vive sott'acqua. Non riusciva a trovare l'animale ambivalente, pesce monaco era troppo banale, capito? Esatto, frate Lorenzo, e si fa consegnare una fiala di veleno di pesce palla per fingersi morta di fronte alla famiglia. La medusina blu ha un presentimento e torna a Verona da Lignano Sabbia d'Oro. Era arrivato fin lì. Arriva e trova il corpo della medusina rosa riverso sul fondale con a fianco una fiala di veleno di pesce palla. Con le lacrime che gli rigano la capocchia, afferra la fiala di veleno e prima di buttarla giù tutto d'un fiato si abbassa sul corpo della medusina rosa per sussurrarle le ultime dolci parole. Prende la fiala di veleno e si uccide. La medusina rosa si sveglia, trova il corpo del proprio amato, senza vita. In preda alla disperazione allunga un tentacolo, trova un pezzo di cozza e si uccide. Non possiamo andare in guerra. Sarebbe tremendo per le medusine. Io sono di Bari. Grazie. Ce l'hai coi baresi? Sono di Bari, anzi, Bari. Scusate se faccio questa precisazione, però ogni volta che dico a un pugliese che sono di Bari, quello subito mi fa: ma Bari? E io: Bari. E lui: mo! Come se avessi detto che sono di Las Vegas. Bari, che è una città straordinaria, stupenda, ma che la Lonely Planet qualche anno fa ha piazzato al terzo posto delle mete turistiche mondiali. Cioè 10 posti al di sopra del Grand Canyon. Alla facciaccia di chi dice che la Sacra Corona Unita non conta niente nel mondo della mafia. Questa è l'unica spiegazione possibile per tale posizione in classifica. Scusate, qui qualcuno ha puntato una pistola contro un editor della Lonely Planet. Comunque questo cosa ha innescato? Che adesso tutti vogliono venire a Bari. Cioè appena io dico a un non pugliese che sono di Bari, lui fa subito: no, sei di Bari, ma allora quest'estate tutti da te, cucaz. Cioè, chi sei tu? Non ho capito. Ci sei tu? Oh. No, ma ragazzi, stanno già partendo ora le chiamate che io ricevo, maggio-giugno, l'amico che dice: ciao, sto venendo in Puglia, cosa mi consigli di vedere? E sai, ripetiamo, noi pugliesi, Polignano, Lecce, Leuca, Monopoli. Però siccome sono un po' cattivo, certe volte mi piace citare delle località che non c'entrano assolutamente niente. Sai, dovresti farti un giro oppido lucano, perché merita. Siete mai stati a Oppido Lucano? No, chi? Pazzesco, pazzesco, ci posso credere, sei stata? Abbiamo un comico in sala! Vabbè, comunque, cara mia, Oppido Lucano è una merda. Ti consiglio di non andare, capito? E neanche di dire queste cose, dovunque. Ma manca Oppido Lucano. Oppido Lucano è un paese al centro della Basilicata, dove la cosa più ficca da vedere sono delle pecore che muoiono di sete perché nessuno le dà da bere. Comunque io a Bari, che ho fatto la quarantena, devo dire, durante la quarantena ho passato molto tempo a essere dispiaciuto per Batman. Fammi spiegare. Comunque non so se hai capito, questo è un monologo, non è un dialogo. Parlate uguali, siete uguali. Mi faccio da capo. Fai l'attrice? Stai continuando a indicare l'amica. È inutile che vi mettete nella merda reciprocamente. Vabbè, dai, ci vediamo tra un'ora, dai, tra qualche minuto. Dicevo, ho passato molto tempo a essere dispiaciuto per Batman, perché Batman è il mio supereroe preferito. Però adesso io, dopo il Covid, non potrò più pensare a Batman senza pensare al coronavirus, no? Perché nascono entrambi dall'incontro tra un uomo e un pipistrello. Perché io sono fermo a quella teoria sull'origine del coronavirus, no? Quella che dice... Adesso mi fa così. Perché comunque lei si sente in dovere di partecipare allo show, capito? Possiamo puntare un faro su di lei, per piacere, eh? Dicevo, perché io sono fermo a quella teoria sull'origine del coronavirus, no? Cioè a quella che dice che a un certo punto un coglione al mercato di Wuhan in Cina ha detto: basta involtino primavera, e è arrivato il momento di ficcarsi in bocca un bel pezzettone di pipistrellone fresco fresco. Coglione. No, ma non a te, a lui, dicevo. Comunque io penso che, cioè, il Covid potrebbe essere l'antagonista perfetto per un film di Batman. Cioè potrebbe essere un film avvincente già dalla prima scena. Alfred, prepara la mia Batmobile. Alfred. Batman e Covid. Sì, sì. Una volta credo di aver evirato un pipistrello. Praticamente ero in Umbria, in questa villa sperduta nella natura. Stavo parlando con degli amici e a un certo punto vediamo una pallina nera che cade dall'alto e fa tipo... ci avviciniamo per capire che cos'è e vediamo che tipo un groviglio di fazzoletti neri quadrati d'aperitivo. Non lo so, non capiamo che cos'è e riprendiamo a parlare. Poi però di nuovo sentiamo. Ci avviciniamo e scopriamo che c'è un pipistrello nero raggomitolato su se stesso che sta mordendo qualcosa. Allora siamo lì con questo amico che fa il veterinario, cioè sua madre fa la veterinaria, quindi lui si spacciava come veterinario, che li prende con due fazzoletti, non neri, per non confondersi, cerca di separarli, ma rimangono attaccati. A quel punto il veterinario, dato il lungo percorso di studi fatto da sua madre, esprime la diagnosi. Si tratta di due pipistrelli gemelli siamesi. C'è una cosa rarissima. A quel punto a me vengono consegnate delle forbici e come un sindaco che inaugura la nuova piscina comunale del paese faccio stack. Eh sì, oh, ma devi smettere. E i due pipistrelli volano via. No, ti voglio bene, sei una grande. Volano via, cazzo. Volano via, apparentemente felici. Ma io avevo dei dubbi. Giorno dopo, vado su Google Immagini e scrivo accoppiamento pipistrelli. Sì, mi sa proprio che... Sì. Certo che se fosse così quel pipistrello avrebbe avuto un ottimo motivo per vendicarsi di tutta la razza umana. E spesso me lo sono immaginato che lui sia riuscito a recuperare i suoi genitali, che sia fuggito nel posto più lontano dall'Umbria, la Cina, per architettare il suo piano diabolico, aspettare per anni che all'interno del suo pene amputato e putrefatto si sviluppasse un virus letale, entrare nel primo ristorante, appendersi al soffitto e al momento giusto lasciar cadere il proprio pisello infetto all'interno della zuppa del primo cliente ignaro, sfregandosi le zampe. Me la pagheranno! Me la pagheranno tutti! Parla così perché gli ho tagliato il cazzo. Al pipistrello! Grande. Grande, grande, grande. E se ne va! Quindi, insomma, è per causa mia se negli ultimi anni ci hanno sparaflesciato quella roba sulla fronte. Che poi vi siete mai chiesti che cosa succedeva quando veniva rilevata una temperatura, avete capito, no? Una temperatura più alta di 37,5. Cosa succedeva? Avanti il prossimo. Prego, stia fermo. 37,6, modalità contenimento virus attivata. Soggetto eliminato. Avanti il prossimo. Prego, prego la bambina. Ferma, ferma amore. Vieni qua. 36,5. Benvenuta all'ex alge. Come, scusa? No, il papà non poteva entrare. Apprezzano battute sulle bambine immaginarie orfane. No, no, mi fa piacere, perché insomma io faccio questo lavoro, poi scrivo, testo, provo le battute e diciamo, io di solito testavo le mie battute con la mia ex e non capivo mai se le facevano ridere. E infatti poi... E devo dire che quando le ho fatto questa battuta, lei mi ha risposto così. Beh, sì, Giuseppe, farà ridere. Perché me lo dici così, scusa? Così come? Insomma, strana. No, no, io ho detto che farà ridere. Sì, ma a te ti fa ridere? Sì, ma veramente? Sì. Scusami un attimo, amore, controllo col rilevatore del divertimento. Ta-da. Bugiarda. Perché non me la prendo a male quando qualcuno non ride una mia battuta? No, no, no. Se tu non ridi una mia battuta, non mi viene voglia di fracassarti il cranio con una mazza da golf e dare il tuo cadavere in pasto ai cani randagi. No, no, no. Cioè, se una delle mie battute non fa ridere, io non desidero assolutamente buttarmi da un palazzo di 7 piani. No. Non voglio assolutamente fuggire in un altro paese sotto falsa identità a subire pratiche sessuali umilianti per potermi mantenere. No, no. Se una delle battute che ho scritto per questo spettacolo non fa ridere, io non desidero assolutamente che sul palco si materializzi un crocifisso infuocato a cui il pubblico mi inchioda mani e piedi con chiodi arrugginiti mentre vengo fustigato col cavo del mio microfono. No, no. No. Ma non mi cambia qualcosa nemmeno se ridi, eh? Non ti terrò a fianco come l'unica persona che conta all'interno di tutta la mia vita. Non ti allontanerò dai tuoi affetti più cari per farti stare sempre solo con me. No, no, no. Ma perché io questa cosa della comicità in generale non la vivo in maniera ansiogena. Anche adesso, per esempio, non mi sembra che questo pezzo stia durando troppo. Non ho la netta sensazione che lo spettacolo si stia affossando per questo strano modo di parlare per negazioni che sto usando già da un po'. No, no. E non sto assolutamente pensando che mi piacerebbe tornare a parlare in maniera normale, ma ormai questo pezzo lo sto facendo così e devo trovare una chiusura coerente di qualche tipo, non lo sto pensando. Non mi sto affatto chiedendo come usare questo modo di parlare contro se stesso per cercare di capire se posso andare avanti. Non sto non utilizzando una seconda negazione dopo la prima per annullare il meccanismo delle negazioni, non lo sto facendo. Non sto alacremente, tendenziosamente, spudoratamente cercando un avverbio che possa sbloccare qualcosa. Non sto per sparare una serie di parole a caso a cui mi possa agganciare, magari ne viene una fuori a cui possa agganciare per sbloccare il meccanismo delle negazioni, non lo sto facendo. Non lo sto facendo una seconda volta di capire se effettivamente riesco a trovare una parola a cui mi possa agganciare in maniera un po' la James Joyce Stream of Consciousness a cui mi possa agganciare, non lo sto facendo. Non ho appena esaurito tutte le idee che avevo. Non sto per fare una serie di cose a caso che non hanno nessun senso, tanto vale vedere se funzionano. Non volare, oh, non cantare, oh, non essere o non essere, questo non è il problema. Non sto parlando in rima per vedere se tutto torna come prima. No, e sto intentando en otro idioma para ver si algo cambia. No, sto intentando. Non ho appena fatto una battuta in codice Morse. Non mi sto andando a nascondere dietro lo sgabello nella speranza che voi vi dimentichiate del motivo per cui siete venuti qui stasera. È impossibile che mi possa nascondere dietro lo sgabello. Non mi sta girando la testa perché mi sono alzato troppo velocemente. Non sto pensando che potrei fottermi di trovare una chiusura coerente di qualche tipo. Non sto pensando che sono troppo orgoglioso per non farlo. Non sto facendo un gesto che possa attirare la vostra attenzione di modo che abbia più tempo per pensare a una soluzione. Non lo sto facendo. Non ho appena aggiunto il braccio per darmi ancora più tempo per pensare a una soluzione, non lo sto facendo. Non sto pensando che ho decisamente peggiorato la mia situazione. Non sto pensando che mi sono automesso totalmente nella merda. Non sto pensando che sono nella merda. Non sto pensando che sono nella merda. Non sto pensando che sto pensando cose che voi potete sentire chiaramente. Non sto cercando un dettaglio che mi possa essere utile. Non l'ho appena trovato. E in definitiva non sto assolutamente pensando che adesso andrò a bere dello spritz da quel bicchiere mentre voi mi farete un applauso a scena aperta, dopo il quale io andrò avanti col monologo facendo tutti quanti finta che niente di tutto questo sia mai successo. Dove eravamo rimasti? Io ho un cane bellissimo che si chiama Woody. E ciao bello, un applauso a Giacomo. E durante la quarantena ho passato molto tempo a osservarlo, e mentre lo osservavo ho capito che sono molto fortunato a essere un uomo, perché i cani hanno un grande problema. Provano tutta una serie di emozioni, rabbia, dolore, gioia, ma per comunicare queste emozioni hanno a disposizione una sola faccia. È una tragedia. È per questo che i cani litigano sempre. Non si capiscono. È un cane felice. Vuoi vedere un cane incazzato? Non serve. È la stessa faccia. Pensa se improvvisamente anche noi uomini avessimo la stessa faccia e quella faccia fosse questa. Renderebbe tutto molto più difficile. Ma tu mi ami? Certo, perché? No, perché spesso non ne sono convinto del tutto. Come mai? No, è proprio una sensazione a pelle. Ti amo. Ok. Grazie al cielo la situazione non è questa, perché noi per comunicare abbiamo innanzitutto un corpo. Adesso vi sto comunicando che sono un coglione. Ma qualcosa ve la sto comunicando, e poi soprattutto abbiamo una faccia che si modifica a seconda di quello che noi proviamo. Quando curviamo la bocca all'insù, le persone vedono che siamo felici. Quando curviamo la bocca all'ingiù, le persone vedono che siamo tristi. Ma la quantità di situazioni e di emozioni è così tanta che ci possono essere delle sovrapposizioni. Per esempio, curviamo la bocca lì in giù anche quando vediamo qualcuno con cui vogliamo andare a letto. Quindi hai presente quel tuo amico che sembra molto depresso? In realtà forse è solo molto arrapato. Un'altra interessante eccezione è quella che serve a indicare sia estremo disgusto sia estremo apprezzamento per un meraviglioso pezzo musicale. L'aggiunta della mano può aiutare a far capire che si tratta della seconda. Un'altra interessante e bellissima eccezione, quella che serve a indicare sia estremo disinteresse nei confronti di un dato argomento, sia estremo piacere sessuale. Scusa, ma non ti interessa quello di cui ti sto parlando? Ah, ti stai facendo una sega! E poi ci sono le persone fotografate nei libri d'inglese. Persone straordinariamente naturali, che sembrano dotate della nostra stessa espressività, ma che in realtà vivono in un mondo infernale dove è concessa una sola espressione per stato d'animo e basta. E chi sgarra finisce nel libretto degli esercizietti audio, in bianco e nero, su carta riciclata, con CD-ROM. Una vita di merda. Una vita dove il massimo livello di trasgressione è fare la domanda "What's your name?". Una vita dove il massimo livello di felicità è una cup of tea with some chocolate biscuits e possibilmente l'uso corretto del present perfect. Un mondo dove si vestono tutti col pantalone verde pisello chiaro, la maglietta blu azzurrina sbiadita, il cappello giallo con la visiera anni 90, praticamente come si vestono i tossici a Rogoredo. Un mondo... Non ci sono più? Dove si sono spostati? E adesso mi devi rispondere, perché se hai preso la parola, cocca. Vabbè, allora, scusa, che stiamo a fare? Ripeto la battuta, come i tossici di Rogoredo. No, no, TVB. Allora lo sai, non ce lo vuoi dire? Scusami, che comportamento è? Persone che non si capisce perché vengono tutte da Edimburgo. Where are you from? Edinburgh. Mai uno di London, uno di Brighton, uno di Bari Bari. Queste persone appartengono ai miei ricordi del liceo. Io, poi che è successo, mi sono iscritto a una scuola d'inglese a Milano, ho comprato i libri di studio ed ero convinto che nel frattempo ci fosse stato un ricambio generazionale, con un miglioramento nella credibilità dei dialoghi, delle situazioni, delle reazioni. I was really wrong. Erano sempre gli stessi attori, cazzo, sempre il solito Robert, sempre la solita Janet, sempre il solito Rex, l'unico cane che appartiene a tutti gli abitanti di Edimburgo, che c'ha 85 anni. Peraltro, i cani sono fortemente discriminati nei libri d'inglese rispetto ai gatti. I gatti sono i protagonisti della frase iconica della lingua inglese. The cat is on the... Io aspettavo una vostra reazione. Ho fatto la pausa e ho detto, tanto diranno qualcosa. Ma voi di cosa vi occupate nella vita? Di rompere il cazzo. Questa è la vostra occupazione principale. Cioè, i cani sono relegati a delle frasi trascurabilissime. The dog catches the frisbee. Stiamo parlando... Quanti spritz hai bevuto? Possiamo portare dell'acqua alle ragazze che stanno in fondo, per piacere? E io sono qui stasera perché voglio dire questa cosa. Equal rights for dogs on the table. Come on. Too many fucking cats on that motherfucking tables. It's time to fight for dogs who want to go on the table too. Every dog wants to go on the table. But there's always a cat on it. And we people are letting this happen. Of course, not every dog can go on the table. It depends on dog's ability. On the sides of the dog. And off the table too. But we must ask ourselves. What if we wanted to go on the table? Who would fight for us? Dogs. Dogs would fight for us. Dogs would kill all the cats. to let us go on the table, but we are doing nothing to help them. Look at you. Sitting down on that chair. You have been sitting down for too long. Also, your wife is very disappointed. It's time to act. Because it's not a matter of dog, tables and cats. It's a matter of freedom. To the dogs. Sono abbastanza migliorato in inglese. Adesso quando sento i proverbi in italiano li traduco immediatamente. The wolf may lose his fur but not his viciousness. Il lupo perde il pelo ma non in vizio. Red in the night, hope good weather. Rosso di sera, bel tempo si spera. Like cabbage at tea time. Come il cavolo a merenda. E poi, my favorite, Titus, Caius and Sempronius. Però devo dire, ultimamente, non mi sto trovando molto bene in questa scuola d'inglese, perché ci sono due tipologie di insegnanti. Quelli che speak like this in order to make you understand everything I am telling to you, because you are paying money. E poi ci sono quelli che arrivano e partono. Right, Giuseppe? E al che l'unica cosa che puoi fare è chiaramente rispondere. I do. Fino ad ora non mi ha ancora sgamato nessuno. Vediamo che cosa succede. Quello che accomuna questi due insegnanti è il loro instancabile entusiasmo per qualunque cosa tu abbia da dirgli. Oggi ho fatto la cacca. Oh, you did? Great job, Giuseppe, very well. Sì, ma l'ho fatta sciolta. Lovely. So lovely. Ho una malattia terminale. Oh, that's fantastic. I'm so happy for you. Ma come fai a dire una cosa del genere? You are very funny, Giuseppe. You're a comedian. See you next Friday. Sarò morto. Bye, bye, bye. Poi le lezioni hanno cominciato a peggiorare quando abbiamo cominciato a farle su Skype. E già partivano male con un primo piano di Patty from Scotland con la telecamera a un centimetro dal mento. Hello guys, are you there? Un cesso inenarrabile. E i guys in questione erano 20 totali sconosciuti, costretti a fare una lezione di un'ora in inglese contemporaneamente, dove parlavano tutti. Un'esperienza alienante in cui tu stai in silenzio per 57 minuti a sentire inglese parlato malissimo. Can I ask to you a question about my socks? E quando arrivavano i tuoi 3 minuti, quei 3 minuti in cui, madonna, volevi far vedere proprio le, non so, le parole, gli avverbi, i congiuntivi, le figure retoriche, non potevi perché ti devi presentare. What's your name? Introduce yourself. Perché in queste scuole, anche se le fai da 7 anni, c'è sempre, ok, Giuseppe, introduce you, my name is Giuseppe, introduce yourself, sempre! Cioè loro, capito, si dimenticano sempre chi sei. Cioè, anche in punto di morte. Robert, stai per morire, hai un ultimo desiderio? Giuseppe, please, introduce yourself. Ma come? Ma hai detto il mio nome, Giuseppe? Ma i momenti di maggior disagio arrivavano con le private rooms. Momenti di grande creatività didattica in cui l'insegnante divideva questo gruppo in coppie che dovevano sostenere una conversazione di 10 minuti in inglese su tematiche sempre molto stimolanti, come i cartelli stradali. Quanto puoi parlare di cartelli stradali? Dai, quanto? Dai, voi. Zero. Cioè, un minuto, due minuti, ma che proprio cominci a, no, fare tipo, what is your favorite? I love the stop sign. Ah, cool. Certe volte ho cercato di sabotare queste private rooms parlando improvvisamente in italiano. Debotto. Come se, capito, organizzassi una ribellione in un governo distopico, tipo Matrix, no? Vito! Eh? Vito, ascoltami. Ma ti rendi conto che stiamo parlando da 10 minuti di sport acquatici? I don't understand. So, what is your favorite swimming pool? Dai, Vito, per piacere, basta parlare in inglese. Tu sei italiano, sei di Bari, ho sentito la tua presentazione. Ah, presentation! Hello, I'm Vito, I'm from Bari, I am 35. Vito, per piacere! Non lo sente anche tu che ci stanno facendo il lavaggio del cervello? Parliamo di qualcosa che ci interessa veramente, in italiano, ti supplico. C'è qualcosa che ti piace? Ti piacciono le donne? Ti piacciono le macchine? Ti piace cucinare? I disconnect now, I'm sorry, goodbye. Tutu. No, Vito! Cos'è? Già partita? Fantasmi? Ma chi vi ha chiesto qualcosa? Vi sentite subito chiamate in causa? Quello sguardo periferico dell'attore. E tu fai così? Dell'attore tu fai così? Ma ragazzi, state parlando da tutto il tempo! Siete simpaticissimi. Un applauso, perché quando ci sono... Quando nel pubblico ci sono i cretini, lo spettacolo funziona, quindi vi adoro, vi amo. Comunque, ci fate mai caso che anche nella vita capita spesso di non parlare di argomenti importanti, no? Come Vito. Perché probabilmente gli argomenti importanti sono spesso legati al dolore, alla rabbia, alla paura, tutte cose da cui ci teniamo a debita distanza. Ed è un peccato perché proprio a proposito di cose da raccontare, spesso non c'è niente di più divertente di una bella storia traumatica. Io per esempio, qualche tempo fa, ho quasi visto il mio cane morire davanti ai miei occhi. Ed è stato durante una serata bellissima, in cui eravamo io, la mia famiglia e i miei amici, in questa villa al mare, con un giardino, costeggiato da una lunga siepe. E siamo lì, stiamo mangiando, con Woody, il mio cane, che appena sente qualcosa che passa dall'altra parte della siepe, va ad abbaiare. Ruff, ruff, ruff, ruff, ruff, andate via! Ruff, ruff, ruff, questo è il mio territorio, ok ragazzi? Ruff! Le classiche frasi dei cani. E noi siamo lì che stiamo passando questa serata bellissima, mia madre ha fatto una buonissima calamarata di pesce, stiamo ascoltando musiche di Renzo Arbore, noi amiamo Renzo Arbore. Mio papà fa un sacco di battute a cui ride solo lui. Insomma, una bella serata. Arriva il gelato, io sto per ficcare in bocca il cucchiaino di gelato e a un certo punto vedo con la coda dell'occhio Woody che sta andando verso la siepe ad abbaiare. Starà passando qualcuno, penso. Neanche il tempo di dire Woody basta che la siepe viene sfondata da un gigantesco cane corso che prende Woody, lo sbatte per terra, gli azzanna il collo e comincia a tirarglielo come fanno i leoni con le gazzelle nei documentari. E tutto questo nel giro di 2 secondi. Per farvi capire come è fatto un cane corso, è praticamente un mastino napoletano a cui da cucciolo hanno fatto leggere il Mein Kampf di Adolf Hitler. Una creatura spaventosa che sta facendo a pezzi il mio cane davanti ai miei occhi. Appena vedo questa scena comincio a urlare. No, Woody, no! Tutti scappano in casa terrorizzati. Restiamo io, mio padre e la mia ex. i Power Ranger. Per farvi capire quanto amiamo questo cane, facciamo tutte le cose più sbagliate che si fanno in situazioni come queste. Mio padre si butta sul cane corso, gli infila le mani nella mascella cercando di aprirle. Io mi butto sulla testa del cane corso e comincio a tirarlo per staccarlo da Woody. La mia ex, che è alta 1,58, ma che quando si incazza diventa Hulk, comincia a dargli in testa dei cazzotti fortissimi, insultandoli in tutti i modi possibili e immaginabili. Cane del cazzo, stronzo di merda, muori, muori! Nella villa entra improvvisamente la padrona del cane corso, urlando e piangendo. Non fa mai così, non si è mai comportato così! La mia ex, continuando a dare i cazzotti in testa al cane corso, semplicemente si gira per insultare pure lei. Troia, puttana, dovete sopprimerlo, questo cane del cazzo. Un casino della Madonna, non si capisce più niente. Io sto lì che tiro e faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. 3 minuti di totale delirio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Cane, bastardo, troia, puttana. Non fa mai così, non si è mai comportato così. Woody, resisti. Arrivano tutti i vicini, improvvisamente il mio amico Carlo Amleto fa una cosa che non ha nessun senso e io mi chiedo ancora come abbia potuto pensare che potesse funzionare. Prende una sedia di plastica da giardino e la avvicina alla testa del cane corso dalla parte delle gambe e lui per questa cosa molla la presa. È stato uno degli eventi più inspiegabili a cui abbia mai assistito. Cioè, per me la sedia di plastica da giardino è sempre stato un oggetto su cui sedermi in giardino. Non ho mai pensato che potesse essere utile per controllare mentalmente i cani. Vabbè, insomma, buono a saperlo, buono a saperlo. Carlo prende Woody e lo porta in villa, dove intanto mia madre aveva già allestito un piccolo santuario. Il cane corso è diventato buonissimo, mi lecca le gambe, mi fa gli occhioni, probabilmente grazie all'effetto ipnotico della sedia di plastica da giardino. Siamo tutti devastati, c'è gente che piange, gente che si dispera, io finisco il mio gelato sciolto. L'unico che non si è fatto niente è Woody. Grazie alla pelle e il grasso che ricopre il suo corpo, non si è fatto niente. Cioè si è salvato perché è un ciccione. A differenza nostra, che siamo massacrati. Io, la mia ex, senza voce, con la mano gonfia. Mio padre c'ha una ferita sul braccio. Siamo andati al pronto soccorso di Ostuni. Tutta la notte, ma è un'esperienza, beh, uno spettacolo a parte. Insomma, ci abbiamo messo molto tempo a riprenderci. Tempo dopo, abbiamo scoperto che questo cane apparteneva a un boss mafioso di un paese di cui non vi posso dire il nome. Brindisi, che era stato ucciso e la signora era la vedova di questo boss. Ma la cosa più assurda è che abbiamo scoperto che questa signora è la madre del cugino acquisito del marito della sorella di mia nonna. Bella famiglia, è la nostra lontana parente. Cioè, se era un tentativo di venirci a fare visita, diciamo che avrebbe potuto portare un vassoio di paste, dei pasticciotti, un nero di Troia. Magari non fare a pezzi il mio cane, con sottofondo Renzo Arbore. A proposito di Renzo Arbore, io mi sento molto in difficoltà quando dico che mi piace. A voi piace Renzo Arbore? Grande, no? Io mi sento molto in difficoltà quando dico che mi piacciono le canzoni di Renzo Arbore, ma perché mi sembra di appartenere a una minoranza di persone, no? Perché per esempio adesso mi sembra che la maggioranza delle persone, dei giovani soprattutto, ascoltano la trap. La trap. La trap. Io devo dire che ce l'ho messa tutta per apprezzare la trap. Ho ascoltato tantissimi brani trap. Ho partecipato a un podcast che aveva come obiettivo quello di farmi apprezzare la trap. ma mi fa schifo. Mi fa schifo. Attenzione, attenzione. Io lo so che è una musica che serve per esprimere disagio. Davvero. Però, signori, chi nel mondo dell'arte non è un disagiato? Chi? William Shakespeare, per esempio. Prima di diventare ricco nella compagnia del re, William Shakespeare era povero, spesso solo, spesso malato, ha fatto la peste, ha fatto le epidemie. William Shakespeare viveva in condizioni igieniche disastrose. E infatti, vi ricordate la scena di Romeo e Giulietta in cui cagano in un secchio e svuotano quel secchio in mezzo alla strada? No? Perché non l'ha mai scritta! Non l'ha mai scritta William Shakespeare! Nonostante fosse una sua pratica quotidiana, certamente per lui molto dolorosa, non ha mai sentito l'esigenza di includerla in nessuna delle sue opere. I Trapper invece godono nell'illustrarci tutta la brochure del loro disagio. Ma voi scusate, se ascoltate una canzone trap, c'è una discrepanza assurda tra la strofa e il ritornello. Cioè, la strofa è piena di cose cattivissime. Ti squarto col coltello. Mio fratello riga tuo fratello riga di una tira una riga di bamba. Ti squarto col ferro, ti esplode il cervello. Tua sorella mi succhia l'uccello. Poi a un certo punto arriva la strofa e diventano degli orsacchiottoni stupendi. E sono fragile per vivere nel mondo. Ti sembra facile, tu che non mi ami in fondo. E questo cuore batte forte quando sei con me. Siamo soli contro il mondo, siamo io e te. Siamo io e te. E poi dopo ritorna, no? Dove ero rimasto? Ti sbatto il cazzo nell'occhio, ti devasto. Affanculo. Ho fatto confusione, strofa, ritornello. Non riesco mai a imparare questo pezzo. Possiamo fare un applauso al mio coautore Ludovico D'Agostino? Abbiamo scritto questo pezzo e io faccio sempre confusione tra strofa e ritornello. Non so perché, non mi entra. Comunque, a noi ci piace Franco Battiato, Lucio Dalla, Enzo Iannacci. Cioè, a noi questo ci piace. Facciamo un applauso a Enzo Iannacci. Cazzo. Il fatto è che io sono un borghese, finto di sinistra, radical chic. Praticamente la categoria che sta affossando questo paese. Eh? Anche Milano. Però questo è un luogo di sinistra comunque. Fa così. Anche io sono di sinistra. No, anche i miei genitori sono di sinistra. Mio papà era iscritto al PC. E devo dire che sono molto grato ai miei genitori per tutto quello che mi hanno dato. Mi hanno pagato l'affitto a Milano. Mi hanno dato i soldi per fare la scuola d'arte, la scuola di teatro. Anche se, devo dire, sono grato a loro per tutto tranne che per una cosa, e cioè che a causa loro, se io sono così, inutilmente alto, perché a me questa roba non mi serve. Cioè, io credo di essere cresciuto molto velocemente, e infatti per questo il mio corpo sembra tipo un dentifricio spremuto male, un tappeto di dentifricio spremuto male. Io mi sono fatto fare un... Chi sei? Vai là... Si muove? Ma sai che secondo me è un'altra lei? Eri tu? Ma prima mi stavi così simpatica. Non sapevo fossi così... No, ma comunque molto... Grazie. No, sei davvero forte. Che fai nella vita? Lavoro in una galleria d'arte. Ah! Quello che sta affossando questo paese. Bello, perché sembra che sto parlando con un fantasma, no? Che voi non la vedete, eh? Sembra che sto parlando col muro. Che fai? Sì, no, tutto bene comunque. Comunque, per tornare alla tematica dello spettacolo, 1,95. Io mi sono fatto fare uno smoking, che non è quello. E con le sarte abbiamo scoperto che la mia vita arriva qui. Cioè, è un top, praticamente. Cioè, pensate se io dovessi interpretare un cowboy in un film western. La cintura delle pistole arriverebbe qui. Come potrebbe essere il mio ingresso in un saloon? Ehi, quella è vita alta, Joe. Non riesce mai a tirare fuori le pistole perché le porta troppo in alto. C'è qualche problema, ragazzi? Ce l'ho fatta finalmente! Una storia tristissima. Peraltro il film più breve della storia del cinema. Io questa cosa della vita alta avrei dovuto saperla da sempre, perché da sempre la mia riga del culo finisce qui. Quindi questo fa di me l'unica persona al mondo che può fare twerking con la schiena. Io sono alto 1,95. E quando lo dico alle persone basse, impazziscono. Impazziscono. Mi propongono immediatamente macabri scambi di carne. Madonna, quanto sarebbe bello se avessi una motosega elettrica con cui ti sego un pezzo di carne, me lo metto qui, me lo cucio, così divento più alto. La gente non sta bene. Poi vabbè, ci sono sempre quelli che mi dicono: Giuseppe, ma perché quando parli sei sempre così gobbo? Queste persone non sanno che se io mi metto dritto, divento antipaticissimo. Pensate se avessi fatto tutto lo spettacolo così. Sono Beppe! Non so di non sapere! Il Covid! E invece è grazie alla mia iperlordosi che io riesco a empatizzare con questa beautiful persona. No, ma voi non potete immaginare, cioè... Certo, a lungo andare il rischio è che io tra 20 anni faccia i miei spettacoli così. Salve a tutti! Salve a tutti, come state? Quanti siete? No, veramente, quanti siete? Me lo può dire qualcuno dalla biglietteria? Poi ovviamente un sacco di problemi anche da un punto di vista relazionale. La mia ex era alta 1,58. Da dove cominciare? Cioè, quando facciamo l'amore era come cercare di far combaciare un pezzo Lego con un pezzo Geomag. Un'operazione difficilissima. Quando ci baciavamo per strada, le persone impazzivano come se avessimo appena chiuso una difficilissima figura di pattinaggio sul ghiaccio. Ci applaudivano, ci mettevano la bandiera sulle spalle. Io poi rischiavo costantemente di ucciderla. Ma non perché tra di noi le cose andassero male. Cioè, perché lei di fatto era sempre all'altezza del mio gomito. Quindi appena io facevo: amore, dove sei? Psh, ti ho fatto male? No, scusami. No, ma poi voi non potete immaginare quante volte al giorno io sento dirmi le seguenti frasi. Ma quanto sei alto? Ma ti danno i fertilizzanti a casa? Ma ci passi dalle porte? Che tempo fa lassù? Ma ti innaffiano i piedi, vedi, loro sono gli stronzi. Qui dobbiamo chiamare l'architetto e ristrutturare tutto l'appartamento per farti entrare. Una signora: ma da piccolo ti hanno messo i piedi a bagnomaria. E poi, ragazzi, la frase più straordinaria di tutte. Bravo. L'abbiamo sentito. Non l'ho sentito nemmeno io, ma comunque devi dare ragione, capito? Devi sempre dare ragione. È la frase più straordinaria di tutte. Anche mio nipote è alto. Siete stati un pubblico straordinario! Grazie! persone. Se lo spettacolo vi è piaciuto, spero di sì. Bello, bello, bello. Grazie. No, bello, bello, bello. Bello, bello, ci sta, cioè, ci sta. Bella serata. Beh, il commento, capito? A un'ora che mi sono scolato. No, bello, bello, bello. Questo, solo se sei milanese, dalle frequenze, di capire se è serio. Ok, è serio, è serio. Quindi grazie e mandateci un po' di pubblico. Grazie, grazie a tutti. 14-18 giugno, Nolo Fringe Festival, Giuseppe Scoditti, Ludovico D'Agostino. Grazie.